Ritorno non mi piace perché non se n'è mai andata via, ha cambiato faccia e quindi adesso si sono accorti della nuova faccia e lo chiamano ritorno, è un termine che viene molto utilizzato, però insomma io lavoro con continuità con l'eroina da 25 anni, per cui il lavoro non mi è mai mancato. Ha cambiato completamente faccia, ha cambiato fenomeno, è cambiato tutto a livello di traffico, a livello di produzione, a livello di consumo e oggi fondamentalmente assistiamo a delle zone di crisi che poi corrispondono con le zone in cui penetrano i nuovi gruppi criminali che spacciano, a macchia di leopardo che tende a confluire, per cui l'aspetto è quello di un fenomeno di ripresa. Sì. Lei ha indicato già alcuni fattori, è cambiato qualcosa anche per quanto riguarda i servizi e la legislazione? Sì, lo sappiamo, però come dire, come impatto? È cambiato qualcosa a livello nazionale, riduzione del danno è diventato un termine impronunciabile, le overdose ormai sono umiliate a problema di polizia, non a problema sanitario. I giornali, o sia le testate web che quelle giornalistiche, quando danno una notizia per overdose non mettono più la foto di un'ambulanza ma quella di una gazzella. Io direi che questo è abbastanza indicativo. Tra l'altro questo è un problema perché scoraggia le persone da richiedere aiuto, così come è successo a Genova, perché la ragazzina che è morta di ecstasy hanno aspettato 2 ore per chiamare, hanno aspettato 2 ore perché avevano paura delle conseguenze. E questo trend è tutto italiano, perché negli Stati Uniti, per esempio, esiste la legge del buon samaritano, per cui se qualcuno chiede aiuto per un problema, per un'emergenza sanitaria legata alle droghe, né la vittima né i presenti possono essere per legge indagati ai sensi del testo sugli stupefacenti. A proposito dei servizi, ad esempio a Bologna sono 10 anni che non esiste più il drop-in. Questa è una vecchia e lunga polemica, diciamo che sono anni che l'amministrazione comunale di Bologna ha bandito anche lei il termine riduzione del danno. Quali sarebbero i modi giusti per affrontare il problema? Ma per l'overdose noi sappiamo che le persone in trattamento hanno una riduzione del rischio di morte di almeno il 98%, persone in trattamento farmacologico. E nessuno dei deceduti della moria degli ultimi mesi era in trattamento farmacologico, o non c'era mai entrato o l'aveva sospeso. Quindi si tratta di aumentare le opportunità di trattamento, però soprattutto di abbassare la soglia di accesso al trattamento e di andarsi a cercare i pazienti. Si tratta di riprendere a fare quello che si faceva e che qualcuno irresponsabilmente ha sospeso. C'è anche del lavoro culturale da fare. Molto lavoro culturale, perché ho detto siamo schiacciati sull'idea che questo sia un problema di polizia. Questo è un enorme problema sanitario. L'hanno capito anche negli Stati Uniti. La polizia americana viaggia con il Narcan e quando c'è un overdose funziona come un'ambulanza, non chiede chi ti ha ceduto la dose.